24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Martedì 14 agosto, sono le 7:16 minuti, anzi verso i 17 tra qualche secondo. Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Gigi Donelli, da Carmelo Lauricella in regia. Dunque ripartiamo più tardi da Taranto, nel senso che ripartiamo perché naturalmente in questi giorni abbiamo fatto spesso tappa appunto nella città, che per diverse ragioni in queste giornate d'agosto assurge involontariamente, ne farebbe immagino a meno, a simbolo di tutta una serie di problematiche che l'Italia va ad affrontare. Tra qualche momento ripartiremo proprio dall'Ilva, proprio da una riflessione sulle pagine dei quotidiani oggi, in questo caso in particolare dal Sole 24 Ore, sul perché l'Ilva metta in gioco il futuro dell'Italia. Ma voglio anticiparvi che poi parleremo invece a partire dalle 8:30 circa anche di procreazione assistita, un tema che riguarda migliaia di italiani, è un tema che è anche una storia del cambiamento sociale del nostro paese, che è stato oggetto di grandi contrasti culturali, etici, morali all'interno appunto dell'Italia, una questione che oggi invece in qualche modo torna a emergere sulla spinta delle difficoltà economiche. Infatti lo spunto arriva dalla Toscana, dove è stato dove viene previsto un nuovo ticket per i bambini in provetta. In alcune regioni italiane ottenere una FIVET, uno dei sistemi più comuni di procreazione assistita, richiede un ticket, la varia da regione a regione, insomma ci sono delle differenze che fanno anche discutere. La Toscana da questo punto di vista è sempre stata considerata un caposaldo, una roccaforte della libertà appunto di accesso a questo tipo di tecnologie. Ora, causa spending review, difficoltà economiche, insomma le cose stanno cambiando, ne parleremo più tardi. Tra i nostri ospiti anche l'assessore alla sanità della regione toscana, Luigi Marroni. Ma ora è tempo, mentre abbiamo fatto quasi le 7:20 minuti, di andare dunque a vedere la nostra rassegna stampa. Eccoci qua, dunque, Taranto. Taranto è l'unica grande realizzazione rimasta del progetto delle partecipazioni statali, che nel secolo scorso realizzò in Italia il ciclo integrale. Questa mattina sul Sole 24 Ore, perché l'Ilva mette in gioco il futuro dell'Italia. Il fondo a firma di Gianmaria Gross Pietro. Dunque, riparte ricordando il ruolo dell'Ilva. Produrre acciaio partendo dal minerale, dal carbone, con impianti collocati sul mare, dunque direttamente alimentati dalle navi. Così l'Italia rovesciò il vantaggio competitivo del Nord Europa, che produceva la bocca delle miniere di carbone, divenuto uno svantaggio con la chiusura progressiva delle stesse. Anche naturalmente la grande storia della migrazione italiana in questi giorni, abbiamo citato nelle rassegne stampa Marcinelle su tutto, ma i grandi disastri appunto dell'attività mineraria. Insomma, la grande siderurgia dell'Italsider, prosegue Gianmaria Grosspietro del gruppo IRI, contribuì alla crescita in Italia dell'industria meccanica, industria di massa, producendo volumi importanti di acciaio primario. In seguito si sviluppò, soprattutto nell'Italia settentrionale, la produzione secondaria di acciaio, fondendo rottami ferrosi in forni elettrici complementari rispetto al ciclo primario. Dopo la privatizzazione della siderurgia e con la progressiva chiusura degli altri poli del ciclo integrale, Taranto è dunque rimasto il maggiore stabilimento produttore di acciaio primario in Europa. La sua produzione è sottoposta alle stesse regole ambientali dei concorrenti dell'Europa comunitaria e i suoi prodotti alimentano le seconde lavorazioni sparse in tutta Italia, costituendo un vantaggio competitivo per gli utilizzatori. Se le produzioni a caldo di Taranto dovessero chiudere, sparirebbero anche quelle di prima trasformazione, non soltanto a Taranto, con i relativi posti di lavoro. Dunque, il Sole sceglie proprio la vicenda Ilva a cui dedicare il fondo di questa mattina, ma vediamo i titoli. I titoli invece, ripartendo dal Sole stesso, Berlino salva euro a rischio. Un altro ricorso fa slittare oltre settembre la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul fondo ESM. Abbiamo più volte detto quest'estate che settembre avrebbe avuto una serie di date clou, una particolarmente significativa era stata indicata in quella del 12 settembre. Allora la Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale tedesca avrebbe dovuto sciogliere appunto un nodo sul ricorso relativo appunto alla partecipazione tedesca al fondo ESM, e ora invece la decisione della Corte Costituzionale tedesca sulla legittimità del nuovo fondo salva stati potrebbe slittare. È stato infatti presentato un nuovo ricorso in cui si chiede alla Suprema Corte di rinviare la pronuncia attesa per il prossimo 12 settembre, perché alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea pende un ricorso analogo. Insomma, ricorso interno allo Stato tedesco, ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione e incertezza che aumenta. Per il Sole, come vi dicevo, il commento, ma naturalmente anche il titolo, Ilva, il governo ricorre alla Consulta. Vediamo le altre notizie. Dalla Stampa, da una parte il giudizio, a giudizio il cameriere del Papa, quattro i mandanti del Corvo. Nello scandalo dunque del cosiddetto WikiLeaks anche un informatico. Padre Lombardi dice: Benedetto XVI vuole chiarezza e non teme problemi. Per quanto riguarda invece la Stampa di Torino, una grossa apertura dedicata al, diciamo, in vista del summit straordinario dei paesi più ricchi del pianeta, il G20, prezzi alti e cibo scarso. Il G20 lancia l'allarme, l'emergenza è planetaria. Qui si innesca una, si incrocia di fatto quello che è il tema della grande crisi dell'agricoltura, dei cereali che ha investito gli Stati Uniti, ma anche il nord-est italiano e diverse zone del pianeta. Una strategia per i rifornimenti sembra sempre più indispensabile, intanto i prezzi crescono. L'assegno e i 25 nomi coperti, Vaticano, i misteri dell'inchiesta. Dunque, a processo il maggiordomo del Papa è un informatico, caccia ai complici. Così il Corriere della Sera questa mattina, due rinvii a giudizio al processo Vaticano sulle carte trafugate dallo studio del Papa. Uno era noto, il maggiordomo di Benedetto XVI Paolo Gabriele, l'altro è un dipendente italiano della Segreteria di Stato, Claudio Sciarpelletti, accusato di favoreggiamento. Nell'inchiesta 25 nomi coperti. In casa del maggiordomo dunque spuntano un assegno, 100.000 euro in edizione dell'Eneide del 1581, che oggi appunto gli specialisti indicano come un libro non particolarmente prezioso. Insomma, oggetti personali e sempre richiamato sulla prima del Corriere della Sera, l'anticipazione del retroscena, le indagini sullo York che preoccupano la Santa Sede. In un racconto delle complessità e di tutta quella parte di inchieste, di coperture, di silenzi che riguardano appunto indagini di questo tipo. Questo è Fiorenza Sarzanini nelle pagine interne. Dopo vediamo di tornarci. Fondo Salva Stati, rinvio tedesco per Repubblica, mentre il quotidiano insiste, riprendendo il suo titolo di ieri, sui temi energetici, con un reportage che racconta quella ricerca dell'oro nero, il bel paese del petrolio. Dopo 20 anni di regressione petrolifera, scrive Ettore Livini, nel bel paese è scoppiata la voglia di idrocarburo fai da te. Il governo Monti è pronto a dar vita a una corsa autarchica all'oro nero che potrebbe regalarci, calcola il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, 0,5 punto di PIL e 25.000 posti di lavoro in più. L'assunto è semplice: madre natura ha nascosto nel sottosuolo della penisola un tesoro da almeno 100 miliardi di euro. Ancora apertura, il giornale Soldi, le 9 bugie di Monti, da Italia alla politica e il piano antipoveri, i 9 mesi del professore a Palazzo Chigi sono lastricate di promesse mai mantenute e intanto arrivano gli ultimi flop, PIL in picchiata, debito pubblico record. Questo è il giornale diretto da Alessandro Sallusti. A centro pagina invece si parla di Miss Italia e costumi italiani. La RAI mette i mutandoni a Miss Italia, si torna ai costumi degli anni 50 e insomma, segnali anche sullo spettacolo appunto delle Miss e chissà, forse cambiamenti, ritorni verso un'immagine complessivamente più sobria. Chissà, la spending review, insomma, in qualche modo sembra colpire anche Miss Italia. Vediamo un po', ancora Libero. Libero invece è tutt'altra storia. Grand Hotel Fini, sulle 9 stanze dell'albergo per la scorta, Gianfranco si nasconde dietro il Viminale, ma la verità è che a decidere l'ispettorato presso la Camera, d'accordo con l'interessato. Il futurista, scrive Libero, non smentisce gli 80.000 euro che gli italiani continuano a pagare per le sue vacanze. Quindi la vicenda della scorta di Fini a Orbetello, una questione che ovviamente il Libero ha sollevato e sta cavalcando in questi giorni. E nelle pagine interne troviamo una riflessione: la forma non basta a lavare la coscienza del direttore di Lettera 43, Paolo Madron, che dice: quando si tratta dei notabili lo Stato non bada a spese. È così rigoroso nel tagliare le mense, il materiale didattico, persino la carta igienica nelle scuole, ma non si preoccupa di quanto costano il vitto e l'alloggio degli scortatori. Come minimo si tratta di un'intollerabile discriminazione tra dipendenti pubblici, oltre che di una incommensurabile figura di palta. Predicare bene, razzolare male, insomma. Il presidente della Camera non è stato sfiorato dal sospetto di quanto sia inopportuno che lo Stato spenda 80.000 euro per assicurare la tranquillità delle sue vacanze. Nessuno al Ministero degli Interni, da cui gli uomini della scorta dipendono, si è sentito di farglielo osservare. Così dicevo Paolo Madron oggi a pagina 5, in questo caso di Libero, che a tutta pagina in apertura riprende la vicenda Fini. Eccoci qua ancora dal giorno, l'assegno del Papa, VatiLeaks, maggiordomo a giudizio, continua la caccia ai complici, ma anche nell'apertura, nel taglio alto, a proposito, diciamo, di spending review e di costumi sociali, perché questi sono sicuramente, come Madron sottolinea, insomma, c'è da porsi delle domande, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una violazione della legge, ma visto che le leggi si fanno nel consesso parlamentare, si possono anche cambiare, così come il tema delle auto blu è ormai un classico, ma non di meno un tema caldo. Auto blu, tassa miliardaria, nel 2011 costate 1.200 milioni malgrado i tagli, e nell'occhiello legame con il caso Fini, per il Viminale tutto ok. Un uomo delle scorte racconta, vi racconto i capricci dei politici. Intanto abbiamo fatto le 7:30 in questo istante, allora sentiamo un po' il meteo. C'è un annuncio di ritorno del grande caldo. Alcuni non si sono quasi accorti che se ne fosse andato, ma sentiamo insieme e poi torniamo per la seconda parte. 24 mattino, estate. Noi guardie del corpo, umiliate, malpagate, politici capricciosi, per loro la crisi non c'è. Come vi ho anticipato per il giorno, oltre appunto ad aprire a tutta pagina sul tema delle auto blu, c'è anche un racconto, un agente, un nome di fantasia, gli viene dato Francesco, che racconta gli imbarazzi di un lavoro da 1.600 euro al mese. Le personalità, dice, sono di due tipi fondamentalmente: i magistrati e le alte cariche, per loro tanto di cappello, poi ci sono i politici, quelli famosi che in qualche modo vengono considerati a rischio, ed è tutta un'altra cosa. Perché tanta preoccupazione per diciamo star dietro a quelli che sono i capricci dei politici? La sua risposta è piuttosto chiara: basta una telefonata, non ti metti mai a discutere, perché una segnalazione e via, lui decide e tu stai zitto. Il posto di lavoro conta e i 1.600 euro che Francesco porta a casa ogni mese servono, così passano anche i capricci. La sicurezza, spiega la gente, è roba nostra, ma molte di queste persone se ne infischiano. Io dico: non passiamo da quella strada che c'è un corteo minaccioso. Lui invece insiste e vince, solo in puntature, lasciamo perdere. Le lamentele maggiori che riceviamo, perché la macchina con cui li andiamo a prendere non è abbastanza nuova, non è abbastanza potente, e quando iniziano a reclamare perché non siamo vestiti abbastanza bene, uno magari sbotta, ma lo sa che un agente ha diritto a un'indennità di vestiario per 90 euro lordi l'anno? Giornate da 1.000 ore, anche quando il turno sarebbe finito e arriva l'invito. Che fai? Tanto lo sai che è una vita pesante, che la famiglia te la scordi. Insomma, Francesco è uno delle voci, diciamo, che emergono da questo mondo delle scorte, che lui stesso, appunto, la fonte del giorno ci tiene a dire è fatta da persone che ne hanno bisogno e, come dice lui, tanto di cappello. E poi c'è un altro mondo, un mondo che è il caso che comincia a fare un po' i conti con i suoi consumi, col suo stile di vita, con la reale esigenza di avere appunto scorte, che poi spesso in realtà sembrano quasi trasformate in forme di accompagnamento. Altri temi, continuiamo con le aperture per il secolo XIX, Berlino rinvio a rischio, il salvastati dunque, ma anche un taglio basso. Ieri abbiamo parlato dei 100 giorni di François Hollande all'Eliseo, e il secolo XIX ci porta a fare una visita all'ex presidente francese, l'esilio sudato di Sarko in bici in Costa Azzurra sognando il gran ritorno, un fugace incontro, Cap Negre, l'Elba o Sant'Elena, presidente, e là, bon courage, Nicolas Sarkozy alza la testa dal manubrio, saluta, sorride, fa cenni di no con la mano di fronte alla macchina fotografica, poi si rifugia in un saluto francese, bellissimo, dice Paolo Crecchi, e intraducibile, a metà tra buona fortuna e in gamba, scatta sui pedali, scompare tra i pini della pista ciclabile. Napoleone Sarkozy, Naposì, si è lasciato crescere un accenno di barba, indossa una tuta da ciclista nera, si muove seguito, a proposito di scorte, da due agenti della Sûreté Nazionale, due agenti vestiti e allenati come lui per l'ex presidente francese. Tutte le mattine alle 10, minuto più minuto meno, esce pedalando dal cancello di Mogano del Domaine du Cap Negre, dove la suocera, mamma della sposa, possiede un castello con vista impagabile sul mare della Costa Azzurra. Ritorna un'ora e mezzo dopo, trova sempre una piccola folla ad accoglierlo, agli intimi che cui ha confidato che è la sua gente, a non consentirgli il ritiro. Una signora l'avvicina, gli chiede del futuro e un pensionato che invoca il suo ritorno tra 5 anni. Lui lo guarda, alza gli occhi al cielo. Presidenti in panchina dunque, come nel caso di Nicolas Sarkozy, presidente invece che prendono in pugno la situazione. In questi giorni abbiamo parlato spesso di Egitto, di Morsi, da una parte l'attacco terroristico lungo la frontiera Egitto-Gaza, il disastro di fatto drammatico che è costato la vita a 17 soldati egiziani della difesa egiziana, la decisione di Morsi, dunque presidente indicato dai fratelli musulmani a capo dell'Egitto, che rimuove, taglia i vertici dell'esercito, l'esercito che ha di fatto gestito la transizione tra il periodo di Mubarak a questa fase in cui siamo appena rientrati. Ve ne parlo per segnalarvi dal Foglio uno degli effetti di questa decisione, e chiara fin dal titolo, secondo il Foglio, il Cairo recide i contatti con Israele. Una settimana fa, dopo la strage di militari egiziani nel Sinai, fonti israeliane hanno detto al Foglio: ci fidiamo dell'Egitto perché abbiamo buoni rapporti con i militari e con i servizi segreti, siamo in collegamento diretto con il capo delle forze armate, il generale Mohammed Tantawi, e con il capo dell'intelligence, il generale Murad Muwafi. Una settimana più tardi di quei collegamenti diretti non resta più nulla. Il generale Muwafi è stato cacciato dal suo incarico martedì scorso. Il generale Tantawi è stato deposto a sorpresa domenica insieme ai comandanti di esercito, aviazione e marina. I riferimenti più noti che ancoravano Israele alla politica estera dell'Egitto, ora governato dai fratelli musulmani, sono stati recisi. Dal suo punto di vista, il presidente egiziano, leader interno della fratellanza Mohamed Morsi, è riuscito in un capolavoro di accelerazione politica. L'ironia in questo cataclisma nell'establishment del Cairo è che le teste dei generali sono rotolati per colpa della strage del Sinai compiuta contro il loro esercito da militanti islamisti che, sebbene lontani dalla fratellanza, hanno però agito grazie all'assenza di controllo alla frontiera con l'enclave palestinese di Gaza, governata da Hamas, costola della fratellanza egiziana. Sono stati Morsi e Hamas a volere la libera circolazione tra i due lati del confine come segno del cambiamento post Mubarak. Insomma, il Cairo che recide i contatti con Israele, questo è, stando al Foglio di questa mattina, l'elemento di grande sensibilità intorno alle decisioni, agli eventi che in queste giornate di agosto riguardano appunto l'Egitto, il Grande Egitto e gli stati confinanti, in particolare dunque le relazioni con Israele. Ancora da Avvenire, Ilva in prima pagina, il caso da consulta, ma anche l'aumento dei prezzi alimentari e le speculazioni quando la carestia diventa un business, scrive Luigino Bruni nell'editoriale. Si sta profilando all'orizzonte una nuova crisi nei prezzi delle materie prime alimentari. Il prezzo del pane è sempre stato qualcosa di più di un gioco tra domanda e offerta. Il pane è certamente un bene, ma non è automaticamente una merce da lasciare alle dinamiche di mercato. In questo caso il pane assomiglia al lavoro, che non a caso gli viene spesso associato. La questione dunque delle materie prime, in particolare delle materie prime alimentari che però, come abbiamo più volte raccontato in queste settimane, sono sollecitate anche dall'impiego, in particolare per i biocombustibili, sono il tema scelto oggi dall'editoriale di Avvenire. Come abbiamo detto, però, questi temi si incrociano e incrociano quelli che sono anche le condizioni meteo. Allora, per fare un approfondimento, ripartirei proprio dal grande fiume italiano, dal Po, dune di sabbia, paesaggio lunare, la secca del Po. L'acqua nei punti più alti è una minestra giallognola, schiumosa e ferma. Mai visto cogliere il mais in agosto, la verdura è andata dritta in semenza. In questo viaggio che viene fatto da Paolo Di Stefano per conto, questo reportage per conto del Corriere della Sera, c'è dunque in vista lo spauracchio del 2006, quando fu toccato il record di secca o di magra, come dicono dalle parti di Castelvetro. A giudicare dall'idrometro piazzato su un pilone del ponte più vecchio di Castelvetro, periferia nobile di Cremona, andando sotto di soli 30 centimetri, il meno 7,62 di allora verrà superato. Il peggio sono le conseguenze sull'agricoltura, il mais, i pomodori, le barbabietole, la soia, i girasoli, che soffrono la siccità estenuante, già debilitati dal caldo tropicale di luglio. Il paesaggio del Po oggi è lunare, isole di sabbia che affiorano, dune grigie, tronchi che spuntano, chiatte arenate, detriti che si depositano ovunque, gli argini nudi e sassosi. Il fiume appare un vecchio padre stanco e abbandonato, i pioppi e i salici argentei lo assistono come figli impotenti. Nei punti più alti l'acqua somiglia a un'immensa minestra giallognola, schiumosa e ferma, triste, molto triste, anche se oggi un eroe locale, il temerario Maurizio Cozzoli, 58 anni, ex campione sportivo, detto il Caimano del Po, ha percorso qualche chilometro a stile libero per festeggiare il 150enario del Ponte di Barche, approdando a riva in mutande a braccia alzate prima di depositare un bacio sulla bandiera tricolore. Insomma, dal fiume e dalla scarsità di precipitazioni parte dunque in Italia, ma in molte zone del mondo, la crisi, ed ecco che quando investe zone di grandissima produzione come il Midwest americano, la crisi diventa globale. Da Obama piano di aiuti intanto al settore agricolo USA, il Sole 24 Ore di questa mattina, l'emergenza siccità sbarca al G20, il G20 di fine mese, che studia un'azione internazionale ragionando su un vertice. L'amministrazione di Barack Obama, scrive Marco Valsani da New York, preoccupata per la siccità record nelle grandi pianure americane che solleva lo spettro di crisi nel settore agricolo e carestie globali, ha deciso di fare scattare i primi interventi. Un immediato programma di aiuti da 170 milioni di dollari verrà gestito dal Dipartimento dell'Agricoltura per acquistare prodotti alimentari da carne di maiale, di agnello, pollame e pesce allevamento, da destinare a programmi di soccorso alimentare, comprese le mense dei poveri. Ecco l'immagine della polvere dei campi aridi nel Midwest, oltre ad essere un problema reale evidentemente, anche una fortissima carica simbolica per il legame che questo ha anche proprio iconografico con la Grande Depressione, l'abbandono dei campi, quello che è stato davvero uno dei momenti anche di trasformazione sociale. Adesso il Midwest nel frattempo è molto cambiato, la popolazione è cambiata, la modalità di fare agricoltura è diversa, tant'è che appunto i meccanismi e le risposte partono con grande anticipo rispetto a quello che fu appunto quasi 80 anni fa. Oggi però non dimentichiamolo, sullo sfondo c'è un passaggio elettorale molto importante, dunque la riconferma possibile di Obama o il cambio della guardia alla Casa Bianca. Ecco come da una parte la grande crisi, le difficoltà dell'agricoltura americana e la vicenda appunto elettorale, la corsa presidenziale si incrociano. L'emergenza nel granaio del mondo, il pericolo effetto domino per il Nord America nel primo piano di Avvenire. Adesso però sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane e poi ripartiamo da questo punto. 24 mattino, estate. Per capire, tuttavia, come la situazione stia mettendo in ginocchio un paese come gli Stati Uniti, si deve considerare che il mais non è solo l'alimento base degli americani, è anche il mangime preferito del bestiame e del pollame, senza considerare il suo consumo come combustibile. A questo poi si aggiunge il fatto che l'America è responsabile per oltre la metà delle esportazioni mondiali di grano turco e quasi la metà di quelle di semi di soia. Il recente aumento del 45% dei prezzi di queste merci verrà quindi trasferito sul costo di quasi tutti i beni alimentari, dal pane alla carne, al latte, ai prodotti dolciari. Ma la crisi si trasferisce anche al di fuori degli Stati Uniti. Uno dei casi significativi che viene descritto è quello del Messico. Il Messico infatti è il principale acquirente latino di mais statunitense. L'88% del cereale importato, informa la FAO, proviene dal vicino settentrionale e dunque il caro tortilla che rischia di aggravare ancor più l'emergenza alimentare nelle zone povere del paese. La FAO allarga il ragionamento e punta alla produzione di mais, grano e soia di Brasile e Argentina per sfamare il mondo. Buenos Aires e Brasilia però finora hanno attuato una politica di utilizzo crescente dei terreni per la produzione di biocombustibili a discapito delle meno redditizie colture alimentari, una scelta pagata finora dai poveri del continente. Sono molte le pagine dedicate alla crisi che è siccità, ma che, come abbiamo visto, già scende e impatta direttamente quelli che sono i consumi alimentari, i costi e le implicazioni politiche. Ancora le materie prime, è un altro approfondimento su questo tema che troviamo su Repubblica, insomma ampi spazi su questo tema. Io però vorrei adesso ritornare invece in Italia per un paio di segnalazioni e ritornare all'Ilva di Taranto, dove oggi trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore uno schema molto dettagliato che descrive gli interventi nello stabilimento, ma anche appunto quelli che sono proprio decostruisce, scompone le parti del grande stabilimento e le sue complessità. Scrive Paolo Bricco: una radicale riorganizzazione industriale, un profondo cambiamento della verifica dei processi con un massiccio adeguamento degli impianti dentro alla fabbrica a spese dei Riva. Ancor prima dell'accelerazione violentissima impressa tra venerdì e sabato con la decisione di impedire la produzione nel ciclo a caldo e con l'estromissione di Bruno Ferrante da custode giudiziale e amministratore, il GIP Patrizia Todisco ha fissato una serie di obblighi che restano il cuore dell'intero caso Ilva, una agenda di natura puramente giudiziaria. Fuori dall'acciaieria, invece, il governo nazionale ha definito in un tavolo allargato a tutti i protagonisti della vicenda gli interventi per eliminare gli effetti di un'attività economica, la siderurgia, che dal 1965 ha portato a Taranto, insieme alla ricchezza e alla modernità industriale, il suo alto impatto ambientale. Oggi 36 milioni di euro per il 98% pubblici, un'agenda di natura concertativa. Le misure chieste dalla Todisco prevalgono rispetto a quelle ventilate dal tavolo composto dalla stessa Ilva, dalla Regione Pubblica, dall'ARPA, dall'ASLI Taranto. Ora, dopo il weekend, dentro e fuori dall'azienda c'è il caos, anche se l'azione compatta del governo dovrebbe riportare razionalità sull'intera vicenda. Ed ecco dunque le aree raccontate dai parchi minerari all'agglomerato, la cokeria, l'alto forno, l'acciaieria, i laminatoi, una mappa di questo grande sistema industriale che oggi diciamo è la base poi degli approfondimenti che ci aiutano un po' a provare a capire quello che sta accadendo intorno a questo grande stabilimento. A proposito di quanto accade, la confusione riguarda molti aspetti. Uno è, sono anche le scelte ambientali. Uno di questi aspetti riguarda le scelte ambientali della politica. In questo senso vi segnalo nel primo piano del Corriere della Sera invece un'intervista a Gianfranco Amendola, oggi procuratore capo a Civitavecchia. L'ex pretore d'assalto si chiede: gli ambientalisti sono spariti? Anche lui, come il GIP di Taranto, Patrizia Todisco, si trovò di fronte a dei colossi. Erano Radio Vaticana, il San Camillo, Forlanini, il Policlinico Umberto I, e proprio come lei non arretrò d'un passo. La battaglia era sempre quella contro l'inquinamento e per la salute pubblica. Scrisse pure un libro, In nome del popolo inquinato, che divenne il manifesto dell'ambientalismo italiano. Ma erano gli anni 70 e c'erano i pretori d'assalto. Gianfranco Amendola, dunque classe 42, oggi procuratore capo a Civitavecchia, era il pretore più famoso, il giudice verde, per antonomasia. E allora a lui Fabrizio Caccia chiede una riflessione sui suoi tempi, proprio dalla semplice battuta, altri tempi dunque, quelli in cui lei si è trovata ad operare. Sicuramente, dice, posso dire di aver avuto la fortuna di vivere in un momento storico in cui la coscienza ambientalista era molto forte, c'erano tante associazioni di ogni tipo, c'era l'Università Verde e la realtà locale che davano battaglia. E il GIP Todisco, dice Caccia, in quei pochi giorni si è fatta molto nemici. E questo, dice Amendola, risponde Amendola, se permettete, è davvero incomprensibile. Anzi, mi chiedo perché ancora nessuno all'interno del CSM abbia deciso di aprire una pratica a sua tutela. La Todisco, dice, ha applicato la legge e basta. Uomini contro, c'è una soluzione? Sì, dice Amendola, la soluzione c'è sempre, ma lo Stato deve decidere. Cambi la legge e vedrà che poi il magistrato si adeguerà. Voglio dire, il governo espropri l'ILVA, cioè adesso prenda in mano la situazione, se no tra un anno saremo qui di nuovo a parlare delle stesse cose. Che faccia un decreto legge, nomini un commissario con pieni poteri, si prenda le responsabilità di affermare che il rischio oggi per la salute pubblica a Taranto è accettabile e dunque si può continuare la produzione, magari diminuendola o eliminandola in parte. Insomma, questo lo Stato lo può fare, così come può imporre all'ILVA di pagare i costi dell'inquinamento. La normativa ambientale poi sarà anche farraginosa, però esiste e ha un capitolo ampio dedicato alle bonifiche. Però occorre muoversi, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha parlato chiaro a proposito di tumori e malattie. Tutto il resto è solo un polverone. Ecco qua due spunti che arrivano intorno al caso Ilva, da cui tra l'altro ripartiremo intorno alle 8:20 facendo il punto, insomma, sugli umori della città con il sindaco in questa vera e propria altalena, insomma, anche di emozioni che, lo ricordiamo, coinvolge quasi 15.000 operai, 15.000 impiegati della struttura, ma la città nel suo complesso, per tutte quelle che sono le ricadute di questo grande impianto. Vorrei chiudere, abbiamo ancora un paio di minuti, segnalandovi che magari li avrete visti nelle città semi-deserte, direi non deserte, di questi giorni. Sono turisti, sono donne soprattutto che vengono a fare shopping nelle città italiane. Paola Bottelli ci racconta come e perché il buon cliente viene da Est nel lusso. Scrive oggi sul Sole, ovviamente, balzo del 70% dei compratori cinesi, ma uno su tre ormai è russo. E allora le tre vie del quadrilatero milanese valgono oltre 3 miliardi di euro l'anno di ricavi e valori retail, pari al 12% del PIL della città. All'ombra della Madonnina, plotoni di stranieri si stanno riversando nelle strade del lusso, così in via Condotti a Roma, in via Tornabuoni a Firenze, San Marco a Venezia, a Capri, Taormina, eccetera, insomma i luoghi conclamati del lusso e dello stile italiano, tutti pronti ad arraffare borse, occhiali, orologi, pellicce, scarpe e valigie con l'agognato logo. Nel contempo a salvare gli incassi, dato che i clienti italiani sembrano quasi del tutto scomparsi per cause note, insomma, incertezze economiche, finanziarie, provvedimenti restrittivi sull'uso del contante. Ma perché comprare qui se i marchi occidentali vantano faraonici negozi in tutta l'Asia? Il motivo è semplice: un prodotto griffato che costa 100 in Europa ha un prezzo di 120 a Hong Kong, addirittura 149 a Shanghai, causa di tasse e dazi. E allora, per fortuna, aggiungo, l'Italia da questo punto di vista è ancora di grande interesse. Resta purtroppo il fatto che, come anche in questo articolo viene raccontato, spesso sono davvero dei passaggi da toccata e fuga, magari il completamento di tour europei che appunto fanno tappa di veramente una manciata di ore nelle città italiane. Quando si arriva in Italia, almeno per i protagonisti del nuovo benessere, allora lo shopping resta un must. Eccoci qua, con questo direi che abbiamo concluso. Sono le 7:57 minuti tra 10 secondi esatti. Tempo di passare la linea a Carmelo Lauricella. Tra poco GR24. Noi ci risentiamo intorno alle 8:20 circa. A dopo. 24 mattino, estate. E 20 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, come vi ho anticipato, torniamo a Taranto, con noi il sindaco della città, Ipazio Stefano. Grazie di essere questa mattina con noi, sindaco. Grazie a lei, buongiorno, grazie per l'attenzione verso la città di Taranto. Beh, direi che è un'attenzione doverosa, anche a essere cattivi, perché ormai è chiaro che questa vicenda sta davvero diventando, ha ampiamente superato i confini comunali. Ecco, se non bastassero, lo vogliamo ripetere, le quasi 15.000 posti di lavoro in ballo, cosa che appunto renderebbe ampiamente sufficiente tutta la nostra attenzione, però è chiaro che sta diventando un vero e proprio caso Italia, in una sorta di ottovolante, insomma. Ci siamo sentiti tre volte negli ultimi 15 giorni, ogni volta per commentare un nuovo passo. L'ultimo vede tornare segnare di nuovo il passo dalla magistratura e il governo che reagisce. Una situazione che chissà, a mio avviso non mi trovo abbastanza vicino ad alcuni commenti oggi, per esempio quello di Ferrante sul Messaggero, che dice: la cosa più incredibile di questa storia è che un'intera storia industriale, con tutti i suoi elementi anche controversi, possa ricadere nelle sfere di responsabilità di un magistrato. E intendiamoci, qui non è che stiamo parlando del fatto che il magistrato non debba fare il suo lavoro, ma del fatto che apparentemente c'è tutta un'altra parte che non l'ha fatto. Sindaco, qual è la sua riflessione questa mattina? Guardi, questa è una sfida importante del rispetto della salute dei cittadini e della capacità di lavorare in Europa senza inquinare e fare delle cose eccellenti. Io la leggo in questa maniera: noi dobbiamo essere capaci di trasformare questa piaga in una grande opportunità. Faccio riferimenti precisi. Noi chiediamo a Taranto il Dipartimento Ambiente e Salute, che possa questo Dipartimento dell'ARPA, è l'organo che controlla, e verificare giorno per giorno lo stato dell'ambiente, dell'aria, e contemporaneamente guardare le ricadute sulla salute. Questa è una cosa, è una sfida in positivo per trasformare, ripeto, questa, osservare questa sofferenza, prevenire eventuali altre sofferenze e trasformarla in virtù. è una conoscenza che può servire al mondo. Io la vedo in questa maniera. Però oggi che cosa si attendono i cittadini? Si attendono un cronoprogramma che ci dica in maniera chiara quando si iniziano a fare le bonifiche e l'ambientalizzazione, un programma preciso, chiaro, che sia comprensibile non agli esperti, ma ai cittadini. Noi abbiamo bisogno della bonifica del Mar Piccolo, ci sono 5.000 posti di lavoro di pescatori, di agricoltori, abbiamo bisogno dell'attenzione al decoro urbano. Insomma, questa attenzione del governo, questa attenzione di tutte le istituzioni, di tutti i mezzi di informazione, noi siamo fiduciosi con la capacità del nostro popolo, con la capacità della nostra magistratura, che ha un'antica tradizione, tra le più antiche al mondo, di saper trovare il punto d'incontro, come è poi l'arte della politica, per garantire il diritto alla salute e il diritto a continuare a lavorare, io dico sempre di più, in questa città, in questo mezzogiorno della nostra nazione. Ecco, una ricerca dunque a tutti i costi e diciamo inevitabilmente della mediazione, che sembra l'unica strada percorribile? Certamente sì, di fronte a momenti di sofferenza non si può perdere la serenità, la calma. Quando un autista affronta una curva pericolosa deve concentrarsi e deve saper controllare le sue diverse sensazioni e le sue diverse azioni. Questo è un momento molto delicato della nostra nazione, non solo della nostra città, perché è un segnale importante, perché se a Taranto non si inquinerà più, non ci sarà nessun posto in Italia dove si potranno permettere di inquinare, e in tutta l'Italia, partendo da questa città che da 120 anni ha servito la nostra nazione. Io ricordo la presenza dell'arsenale militare che pure ha inquinato il Mar Piccolo da 120 anni. Noi siamo orgogliosi di avere la Marina Militare a Taranto, ma adesso dobbiamo, ripeto, guardare con attenzione e superare gli errori del passato e controllare e non aspettare a intervenire quando in pratica il danno è evidente e conclamato. Ecco, ma iniziare questa, direi, per prevenire e forse anche ai primi segni. L'Italia non è un paese forte sul fronte della prevenzione. Nella nostra cultura la prevenzione si affaccia purtroppo spesso solo quando appunto il danno è forte. Lei parla addirittura di un'industria, di una siderurgia non inquinante. Bella l'immagine, ma non è anche pretendere troppo? Non sarebbe sufficiente che ciascun pezzo appunto facesse fino in fondo il proprio lavoro e magari accettare l'idea che c'è una inevitabile impatto sul territorio, ma che ciascuno poi deve svolgere il proprio ruolo di controllo? Oggi perché, sindaco, quello che non è stato fatto per 30 anni oggi dovrebbe essere possibile? Che cos'è che vede all'interno della comunità, del comune di Taranto, della regione, che naturalmente svolge un ruolo centrale in questa vicenda, che la fa essere ottimismo, o è un ottimismo diciamo d'obbligo legato alla sua funzione di sindaco? Guardi, la sofferenza a Taranto è così diffusa oramai, evidente e conosciuta, che anche i bambini conoscono le cause e gli effetti di questa sofferenza. Noi però non chiediamo la luna del pozzo, noi chiediamo semplicemente che vengano rispettate quelle norme europee, perché se queste leggi vengono rispettate a Berlino non vedo perché, non capisco perché non debbano essere rispettate a Taranto o in Italia. Noi non chiediamo cose impossibili, chiediamo che quelle azioni di prevenzione o di controllo che sono possibili a Parigi, che sono possibili a Ginevra, che sono possibili a Berlino, vengono applicate anche a Taranto. Non pensiamo naturalmente di poterlo fare domani, sappiamo che c'è bisogno del tempo, però iniziamo a fare cose che le persone possono vedere, toccare con mano, rendersi conto che le istituzioni sono al servizio dei cittadini. E poi guardi, la prevenzione non è solo un fatto morale, è un fatto anche intelligente, perché quando uno previene risparmia anche soldi. Su questo non c'è dubbio. Ci parli della piazza. Ieri abbiamo visto due manifestazioni diverse. Si tende in questi casi a sottolineare proprio l'elemento di diversità. Dall'altra parte forse si potrebbe anche sottolineare il fatto che è assolutamente sano e legittimo che all'interno di un luogo di forte tensione, come inevitabilmente è Taranto, con gente che, ripetiamolo, pensa al proprio futuro, al posto di lavoro, ci siano delle dinamiche di espressione delle posizioni lontane, diverse. Allora, com'è la situazione in città? Qual è il polso di Taranto oggi? Come lei ha detto, noi non stiamo parlando di cose futili, stiamo parlando di problemi fondamentali della vita degli uomini, che sono la salute, che sono la vita, che sono l'occupazione, il lavoro, vita, diciamo, da un altro punto di vista. Ora, è evidente che in questa situazione c'è un dibattito forte e acceso nella città, però le posso garantire che tutti chiedono salute, vita e occupazione. Non c'è nessuno che, voglio dire, vuole rinunziare a una delle due cose. Adesso l'abilità della politica, l'abilità delle istituzioni è quella di trovare, come abbiamo detto, una via di mezzo che dia immediatamente delle risposte per garantire l'intervento e garantire la riduzione del rischio e in un programma serio, comprensibile, faccia capire in quanti anni noi riusciremo ad essere una città che non ha gravissime conseguenze. Come lei ha detto prima, è evidente che ogni azione dell'uomo porta delle conseguenze positive e negative, anche l'alimentazione porta delle conseguenze negative alla salute se uno sbaglia oppure se eccede, e quindi è evidente che dobbiamo trovare il punto di mezzo, di incontro che, ripeto, rispetti la produzione e la salute dell'uomo, e questa è l'abilità della politica. D'altra parte l'uomo si differenzia proprio per la ragionevolezza e non perché ha solo emozioni. Le emozioni servono, ma servono soprattutto se sono controllate dal cervello, dalla ragione. Assolutamente. Un'ultima domanda. Dunque, oggi alle 11 Clini che interviene alla Camera, al 17 l'incontro. Ecco, di fatto ampiamente ci ha dato un quadro di quelle che sono le aspettative della città sua, ma nei prossimi giorni fase decisiva, oppure bisogna accettare l'idea che in realtà si andrà avanti a lungo? Non dimentichiamolo, tutto questo mentre l'impianto lavora. Quello che ora per ora manca clamorosamente è l'intervento, proprio l'avvio della parte di bonifica, cioè l'avvio della trasformazione. E infatti è quello che lei ha fatto centro, è quello che dicevo prima io. Guardi, dobbiamo forse smettere o abbassare i toni nella discussione e iniziare a fare fatti, a dare risposte. Questo la gente vuole, questo la ragione vuole, perché continuare a parlare, continuare questo scontro fra le istituzioni o fra i cittadini, nelle opinioni diverse, non porta certamente bene a nessuno e da nessuna parte. Dobbiamo invece piegarci a ragionare e dire i fatti concreti che vogliamo mettere in campo. Grazie sindaco, grazie di essere stato con noi. Pazio Stefano, lo ricordo, sindaco di Taranto. Dunque, intanto abbiamo fatto le 8:31 minuti, dunque è tempo di sentire le ultime rispetto al meteo, le previsioni di queste ore, di queste giornate. Poi cambiamo argomento, parliamo di ticket, o anzi di super ticket, come è stato indicato, per la procreazione assistita. In alcune regioni italiane, per ottenere una FIVET, uno dei sistemi più comuni di procreazione assistita usata in Italia e nel mondo, da un centro medico pubblico, da uno privato convenzionato, si dovranno pagare fino a 500 euro. Una decisione che fa discutere, che naturalmente solleva anche un interrogativo: è davvero sbagliato pretendere un contributo da parte dei privati, appunto, per questo tipo di processi? Sentiremo tra qualche momento con i nostri ospiti. A tra poco. 24 mattino, estate. L'Ilva di Taranto naturalmente fa parte anche dei, diciamo, occupa molti dei messaggi che riceviamo attraverso l'SMS al 349-238-6666. Ancora questa mattina chi ci scrive, insomma, basta dibattito sull'Ilva, bisogna fare, agire, fare. In fondo è quello che emerge da una vicenda che ha una complessità davvero enorme e che d'altra parte richiede azione. Staremo a vedere. Dunque, oggi abbiamo detto anche in calendario interventi alla Camera, poi il 17, quindi subito dopo il Ferragosto, i ministri, la discesa dei ministri a Taranto, una decisione, una serie di decisioni attese che riguardano la salute, il lavoro in questa estate e che naturalmente riguardano Taranto, ma l'Italia nel suo complesso, come sicuramente riguarda l'Italia nel suo complesso quello che è il grande tema della procreazione assistita, un tema che riguarda, tocca intimamente gli italiani, le famiglie italiane, ma anche un tema che sappiamo ha vissuto negli anni un percorso in cui tutti i temi scientifici sono sempre andati di pari passo con un dibattito a volte addirittura feroce intorno appunto alle tecnologie per la procreazione. Dopo addirittura un referendum di fatto che non andò da nessuna parte per mancanza di partecipazione, poi decisioni delle corti anche in questo caso che cambiano una legge quadro, quella della L40, si ritorna a parlare per una decisione che arriva invece dalla Toscana, una decisione che parla di un super ticket per i bambini in provetta. Allora, innanzitutto ce la facciamo spiegare dall'assessore alla sanità della Regione Toscana, Luigi Marroni, grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, assessore, 500, fino a 500 euro per appunto di super ticket. Cosa succede in Toscana? Perché questa decisione? Ma due cose. Uno, vorrei dire preliminare che noi abbiamo fatto questa manovra per salvare il nostro welfare. Noi puntiamo molto sulla sanità e quindi per mantenere il livello complessivo che abbiamo raggiunto stiamo riformando un po' tutta la sanità, quindi con grosse riorganizzazioni negli ospedali, nei letti eccetera eccetera, e abbiamo anche come parte aggiuntiva fatto una manovra sui ticket complessivamente e poi anche sui ticket per la PMA, la procreazione medicalmente assistita. Devo dire, in Toscana ci puntiamo molto su questo settore, è una delle regioni dove nel settore fra pubblico e privato convenzionato, che da questo punto equivale al pubblico, copriamo più del 90-95% degli interventi, abbiamo il 40% di persone che vengono da fuori regione. Abbiamo tre centri di cui un centro di eccellenza, quindi è un settore dove noi puntiamo molto, proprio perché ci puntiamo molto, proprio perché crediamo veramente in questo settore, abbiamo pensato che, lei sa, ci sono quattro livelli di difficoltà o di complessità, su quello FIVET, che è quello più diffuso, diciamo, che copre il 70-80% degli interventi, abbiamo chiesto un contributo che arriva a 500 euro. Consideri che metà Italia non ha un settore, un servizio pubblico, e che in circa metà d'Italia circa è tutto privato. Nel privato questo intervento va dai 3.000 ai 5.000 euro a seconda dell'istituto dove una persona va. E che ci sono diverse regioni che chiedono, non tutte, qualcuno è gratis, che chiedono ticket sui 1.000 euro. Noi abbiamo pensato che fosse per una cosa appunto che ha questi costi molto alti, che è un ottimo servizio per mantenere il nostro buon servizio, ottimo credo servizio, di chiedere questo contributo. Quindi un contributo difensivo, un contributo difensivo diciamo sul bilancio della sanità. Ecco, ma 500 euro, una cifra importante, voglio dire 500 euro è qualcosa che viene chiesto per altri ticket o in questo modo lo portate appunto a un picco e mandate anche un segnale, magari verso chi si rivolge alla Toscana anche da altre regioni? No, no, non è questione di segnali, è per una prestazione che le dico, viene tariffata circa 2.000 euro quando ci si scambia intra regione. Sul privato costa fino a 5.000 euro, ci sembrava che fosse una richiesta, come dire, consona, ecco, o adeguata. Quante sono le richieste che appunto la Toscana di fatto soddisfa ogni anno? Quante, dunque, di quanto stiamo parlando? Facciamo fra l'anno, erano 7.500, stiamo andando per, quest'anno prevediamo di farne 8.000. 8.000. Non sono tutte a 500 euro, Non sono tutte 500 euro e di questi 8.000 sono tutti toscani? Tutti? No, sono il 40% sono da fuori regione, perché un servizio ritenuto, credo, mi sembra molto buono. Quindi sono circa il 62% di toscani e il 38% di non toscani. Carlo Flamini è membro del Comitato Nazionale di Bioetica, ginecologo, accademico, un pioniere della procreazione assistita in Italia. Buongiorno, grazie di essere con noi. Cosa ne pensa di questo ticket? È davvero, come dice qualcuno, una sorta di barriera? Ci sono state, naturalmente, come accade sempre in questi casi, diciamo, delle proteste. Qual è il suo primo pensiero? Ma purtroppo non sarà una barriera, perché la gente per fare un figlio si vende la casa, quindi andrà avanti per la strada che ha scelto. No, sono d'accordo su molte delle cose che ha detto l'assessore, per la parte. La Toscana ha la migliore sanità del paese, d'Italia, quindi insomma bisogna essere cauti nel criticarla. Volevo coinvolgerlo, se ha un attimo di pazienza, su una serie di piccoli problemi. Il primo è perché quando c'è qualcosa da togliere, la si toglie sempre a qualcosa che ha a che fare con le donne, no? I consultori, adesso il problema della terapia della sterilità. Dovrebbe capire che la sterilità non è un problema di capricci, è un problema di sofferenze, quindi se sentiamo la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è un problema che ha la dignità della malattia e le tecniche sono cure, anche qui c'è stata una discussione, non sono cure perché lasciano la sterilità che trovano, ma non è vero, allora nemmeno l'insulina che cura il diabete è una terapia. Allora, detto questo, il problema è, ma siamo sicuri che bisogna proprio togliere lì? E poi, chi ce lo consente? Perché fare questa scelta? Ci sono paesi che per scegliere su cosa tagliare, cosa privilegiare, hanno fatto referendum, hanno chiesto ai cittadini, ma cosa vogliamo privilegiare? Perché i soldi non ci sono per tutto, quindi... Cioè una spending review pilotata, facciamo delle scelte. Della prevenzione, scegliete voi. Poi, abbiamo una sanità piena di sprechi, l'assessore lo sa bene, io le vedo dal mio punto di vista di endocrinologo, insomma, faccio semplicemente un richiamo all'assessore perché mi capisce bene. Le iperprolattinemie non vengono confermate in più del 50% dei casi, ma hanno già tutte fatte una risonanza magnetica. Lei pensi quanto costa? Lo faccia capire anche noi, però. L'iperprolattinemia è una malattia che può dipendere da un tumore dell'ipofisi, soltanto che la prolattina viene prodotta in grande quantità anche semplicemente se io sono spaventato o arrabbiato. Allora un esame per sé non vuol dire che io sono malato, può voler dire semplicemente che lei mi ha fatto male a farmi l'iniezione. Se su questa base si passa a fare indagini sui tumori ipofisari si spendono un'infinità di soldi e poi alla fine nel 50% dei casi si risulta che l'iperprolattinemia non c'era. Insomma, chieda anche l'assessore, fare delle scelte, fare delle scelte in questo paese. Insomma, il punto del professor Flamini direi che è piuttosto chiaro. Innanzitutto quello che riguarda quella delle donne, dunque, dice Flamini, assessore Marroni. Perché proprio lì? Perché? No, guardi, io con tutto saluto il professor Flamini, che è un luminare in questo settore, quindi, come dire, dice cose sempre molto molto importanti, però dire che in Toscana si voglia colpire le donne mi sembra una cosa se mi permetta, sostanzialmente ingiusta. Due cose. Uno, intanto nei nostri percorsi che riguardano la protezione medicalmente assistita c'è una forte attenzione per esempio agli uomini e c'è una sorta di percorso di consulenza andrologica proprio per portare a la decisione di una FIVET ad esempio dopo che ci sia stata un'analisi sull'uomo proprio per, come dire, in qualche modo proteggere la donna da queste, perché sono cose, sono, voglio dire, delle terapie ormonali sicuramente molto intense e molto importanti. Quindi questa cosa. Un'altra questione è che io ripeto, noi proprio per questa patologia, per questo problema che colpisce tante coppie in maniera anche molto intima, abbiamo messo su un grosso servizio. Noi abbiamo, credo, un servizio d'eccellenza diffuso in rete, nei consultori, c'è il percorso andrologico, non abbiamo solo degli istituti che fanno queste cose. E proprio per proteggere questa cosa, perché è un grosso valore, abbiamo pensato che in una revisione complessiva della compartecipazione, in un discorso di taglio enorme, noi abbiamo messo un piano di risparmio e di revisione della nostra sanità di 400-500 milioni in due anni, quindi su tutto il resto. Quindi abbiamo pensato che questa fosse una cosa ragionevole, ecco, mi consenta. Ecco, questo dubbio che sembra quasi emergere dalle sue parole, perché di fatto questa decisione non è definitiva, perché diciamo state... No, è solo una percezione mia sbagliata. No, volevo dire che è una cosa come quando si decide di aumentare la compartecipazione, non è una cosa che si fa a cuor leggero. Come dire, quindi è sempre una decisione meditata, ponderata, ecco, e anche un po' sofferta se vuole. C'è un punto che in una revisione complessiva della nostra sistema sanitario in Toscana è stato appunto la giunta, abbiamo deciso di rivedere anche il settore compartecipazione. Poi chiaramente quelle cose non sono, le monitoreremo tutto l'andamento. E voglio dire, se ci sono degli squilibri che questo genera, ci sarà anche, come dire, modo di modificare, ma non è che è una decisione temporanea, è una decisione ora presa e che, come dire, col monitoraggio dei mesi prossimi vedremo gli effetti. Luigi Marroni con noi, lo ricordo, l'assessore alla sanità della regione Toscana. Adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi torniamo ai nostri ospiti. 24 mattino, estate. L'acronimo FIVET, fertilizzazione in vitro con embryo transfer, è utilizzato per definire una tecnica di procreazione assistita tra le più comuni. Si tratta di una fecondazione in vitro dell'ovulo con successivo trasferimento dell'embrione così formato nell'utero della donna. Il primo essere umano nato con questa tecnica fu Louis Brown, Londra, 25 luglio 1978. Quella che poi è, diciamo, tecnica diventa anche una storia di forti resistenze culturali, di grandi dibattito all'interno del nostro paese, che naturalmente ha segnato attraverso appunto leggi, tentativi referendari eccetera la storia di questa tecnica e l'applicazione in Italia. Professor Flamini, allora, sentire l'assessore della regione Toscana, che regione che, come lei stesso ha detto, è un punto di eccellenza di sanità nel nostro paese, preoccuparsi, smentire assolutamente l'idea che ci sia una posizione contro le donne, ma preoccuparsi del bilancio complessivo, della sostenibilità della sanità, non sembra affatto irragionevole. Lei però è convinto che, come dire, ci possano essere altre strade, ma allora quali, in una situazione in cui il bilancio, quindi in una situazione complessiva di bilancio difficile? Allora, le dicevo innanzitutto togliere le cose inutili che riguardano tantissimi esami. Faccio un altro esempio all'assessore e la prego, assessore, capisca, io sono un ammiratore di come voi fate sanità nella vostra regione, quindi le mie non sono critiche, sono tentativi di aprire una discussione perché potrebbe essere utile. Per esempio, ci sono un'infinità di esami che vengono fatti, che sono utili per l'abortività ripetuta, e vengono fatti a donne che non hanno mai avuto una gravidanza, mi chiedo perché, ma potrei farle 100 di questi esempi. Nelle linee guida bisognerebbe chiarire che le ICSI sono meno utili delle fertilizzazioni in vitro e chiedersi perché se ne fa il 70% in questo paese. Poi le chiedo ancora, ci sono cose che noi facciamo che sono di utilità incerta, non so, pagare a una persona il trattamento di terapie non usuali, di quelle che la medicina ufficiale non accetta ancora, è molto sperimentale. E io credo che qualcuno potrebbe dire, ma prima di tagliare a cure che sono sicuramente efficaci, guardiamo altrove. Ultima cosa, nessuno ha voglia di investire nella prevenzione. Io le ricordo che moltissima sterilità è iatrogena, dipende dai medici, sono errori commessi dai medici in molte circostanze, proviamo a diminuirli. E poi, cosa fanno le regioni per aumentare la conoscenza? I cittadini hanno diritto di scegliere, ma se non conoscono non possono scegliere. E molti degli errori che fanno i cittadini, che li portano ad essere sterili, sono dovuti alla mancanza di educazione. Capisco che la prevenzione non ripaga subito, ma nel tempo la prevenzione ripaga, e come? Ecco, io alla fine le chiederei anche questo. Io credo che una regione come la vostra, che sono convinto di quello che dico, è in testa in Italia, perlomeno in Italia, ma forse anche in molti paesi d'Europa la guardano con invidia, a come si deve fare la medicina, ci sia ancora scarsa attenzione al modello di medicina. I medici usano un modello ancora paternalistico, basato sulla difesa nei confronti dei tribunali, sono modelli sbagliati e hanno un peso anche nelle scelte che voi poi venite a fare. Allora le chiedo, non siamo un po' troppo attenti a come reagiranno i medici e un po' troppo poco attenti a come reagiranno i cittadini alle nostre scelte politiche? Adesso chiediamo subito tutto questo a Barroni, però a lei invece, dottor Flamini, chiedo, lei parla di eccesso di analisi, eccesso sprechi, ma allora mi rivolgo invece al medico, perché se ne fanno così tanto? Perché ne fate così tante voi medici? Io credo che in gran parte sia appunto la medicina difensiva. Il timore è che domani un esame potrebbe risultare utile, non è stato fatto e il paziente si porta in tribunale. Chiarissimo. La risposta è chiara. Dunque, Luigi Marroni, allora abbiamo sentito più volte il professor Flamini ha ribadito, e questo è importante, come la Toscana rappresenti davvero un'efficienza, e forse per questo, insomma, ai primi della classe spesso si chiede anche di rappresentare un modello, e allora dice prevenzione, cultura sanitaria. Prego, lei la parola. Dunque, ringrazio il professore per quello che ha detto, anche gli spunti che dà naturalmente sono interessanti, sono peraltro oggetto di un dibattito, ma non solo organizzativo, ma proprio culturale nel mondo scientifico, un po' in tutto il mondo occidentale, o comunque nel mondo europeo. Io direi due cose. Uno, l'attività dell'eccesso di esami di diagnostica, che è un tema, voglio dire, di tutta Europa, noi lo stiamo affrontando continuamente. Ecco, potrei anche dire che poi in sanità non c'è nessun risultato che definitivamente è raggiunto, no? Ogni volta che si pensa di averlo raggiunto va consolidato, altrimenti non rimane più attuale. Quindi sull'eccesso di diagnostica, in effetti noi in questa riforma che stiamo facendo andremo a mettere dei criteri oggettivi che su certi esami particolarmente costosi dovranno essere soddisfatti. Per quanto riguarda invece quello che dice un po' dell'approccio del medico al paziente complessivamente, la prevenzione, noi abbiamo un grosso progetto che ci sta dando risultati interessanti e che estenderemo, è quello che si chiama la medicina d'iniziativa, in cui i nostri medici, soprattutto medici di medicina generale, seguono un programma in cui vanno a cercare le persone prima che queste si presentino per prevenire potenziali patologie. è una cosa molto innovativa che dovrebbe un po', come dire, essere un po' la frontiera del nuovo rapporto fra il medico e il paziente. Grazie a Luigi Marroni, lo ricordo, assessore alla sanità della Regione Toscana. Ancora con Carlo Flamigni, una domanda vorrei fare ancora, professore. Come dicevamo, questa è una storia che in Italia, diciamo, è stata una storia di scienza, ma anche una storia di grande impatto culturale, di posizioni appunto tra laici e religiosi. Oggi nell'Italia di quest'estate 2012, tutta quella parte appunto non scientifica, non laica, a suo avviso è superata? Abbiamo una normativa matura che vi permette di svolgere pienamente il vostro lavoro oppure no? In questo momento della legge 40 non è rimasta che la proibizione della donazione di gameti, che è quella che spinge ancora un'infinità di coppie a lasciare l'Italia e andare a farsi dissanguare all'estero, dissanguare e maltrattare all'estero, solo che la legge 40 è stata smantellata, quindi non è che noi abbiamo una norma adesso, io credo che dovrebbe ritornarci sopra, ricostruire delle linee guida più dettagliate. Nelle linee guida ci sono ancora riferimenti ad indagini e a cure, soprattutto che non servono assolutamente niente. Bisognerebbe che i medici si ponessero queste domande: che cosa serve monitorare l'ovulazione? Una donna con un minimo di istruzione, di cultura, lo fa benissimo da sola, non ha bisogno di spendere un mucchio di soldi e di farli spendere alla sua regione, per esempio. Allora io credo che bisognerebbe proprio fare sedare queste discussioni, metterle dietro le nostre spalle, non so quanto sarà facile, per provare a ricostruire dalle macerie della legge 40 delle norme che siano soprattutto utili per i cittadini, perché insomma qui sembra che tutti questi problemi alla fine siano fatti perché interessano il sacerdote e il laico, no, interessano le coppie sterili che vivono una vita di profonda sofferenza, vivono in un tunnel di sofferenza dal quale cercano di uscire. Grazie a Carlo Flamigni, lo ricordo, è membro del Comitato Nazionale di Bioetica, ginecologo, accademico, pioniere della procreazione assistita in Italia, che procreazione assistita che, come avete sentito anche dalla brevissima scheda che ho condiviso con voi, di fatto compie 35 anni di storia, una storia che appunto nel frattempo è cambiata per le tecniche, è cambiata per le condizioni di chi appunto è interessato e fa ricorso a queste tecniche. Grazie ai nostri ospiti, siamo quasi in conclusione, vi ricordo solamente una cosa prima di passare la linea a Gianfranco Fabi, che vedo avvicinarsi intanto qui allo studio, tra poco si occuperà di Facebook, di social networking e appunto applicazioni connesse. Io invece voglio ricordarvi che nell'anno accademico 2012-2013 saranno attivi 4.491 corsi di laurea, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. Per le lauree di primo livello a ciclo unico la tendenza è un ritorno alle materie di base. Queste sono solamente le prime righe di quello che oggi trovate in edicola, un libro appunto dedicato dal Sole 24 Ore alle università, il settimo titolo della tua economia, la serie di volumi che ogni martedì si occupa di temi concreti. A proposito di concretezza, ne parlavamo pochi istanti fa, dai mercati finanziari, le manovre del governo, ogni libro affronta le cadute quotidiane. Oggi dunque l'università, che cerca di offrire un panorama generale in ogni area disciplinare, di fare il punto sui possibili sbocchi lavorativi e sulle professioni più richieste attraverso 4 capitoli di approfondimento. Bene, con questo abbiamo davvero chiuso, ormai le 8:58 minuti. Noi torniamo naturalmente con 24 mattina estate domani mattina intorno alle 7:15-7:20 circa. Per ora è tutto, a tutti voi l'auguro di un'ottima giornata, GR24, e poi, come vi ho anticipato, Gianfranco Fabi, la mattina dell'informazione continua, si parla di social networking. A domani.